Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, parliamo questa sera di un soggetto molto diffuso e il libro però ha un titolo molto particolare, anzi ha un non titolo perché nella copertina campeggia soltanto un punto interrogativo. Sottotitolo: Il paradosso dell'ignoranza da Socrate a Google. L'autore Antonio Sgobbo, un giornalista della RAI, il libro è pubblicato dal Saggiatore, 342 pagine, 20 euro. Protagonista del libro, dunque, è l'ignoranza con la quale dobbiamo fare i conti, nonostante l'illusione che si sta diffondendo che attraverso internet tutto si possa conoscere e che dunque l'ignoranza possa essere vinta. L'autore comincia il suo libro esplorando il concetto stesso di ignoranza, ci avverte che le maggiori conoscenze non correggono necessariamente l'ignoranza. Contesta il famoso imperativo socratico conosci te stesso per concludere su alcune modalità per sconfiggere l'ignoranza, per studiare come essa si diffonde e per esaminare come sfruttare l'enorme patrimonio di ignoranza diffuso per il mondo. E su questi temi sentiamo adesso l'autore. Buonasera ad Antonio Sgobba. Buonasera, buonasera. Antonio Sgobba, lei comincia il suo libro dando varie definizioni dell'ignoranza. La definisce una libreria vuota, un cruciverba da riempire o una terra da esplorare. Secondo lei che cos'è l'ignoranza? Anche perché, glielo chiedo anche perché lei sottolinea l'aspetto della ricerca senza fine, per cui col crescere della conoscenza cresce anche l'ignoranza. Ecco, le immagini che ha citato sono immagini che vengono spesso usate per parlare dell'ignoranza e sono tutte immagini in qualche modo fuorvianti, perché quelle della libreria vuota o del cruciverba da risolvere sono comunque immagini legate a un'idea di qualcosa di finito che si possa in un qualche modo riempire o appunto risolvere. L'ignoranza invece è infinita. Un esempio che faccio nel libro è quello dell'isola e dell'oceano. Dell'isola, però in questo caso è l'isola della conoscenza, e l'oceano invece è un oceano infinito, l'oceano dell'ignoranza che la circonda. Questa immagine ci permette anche di spiegare un altro paradosso che sta alla base proprio della natura dell'ignoranza, è quello della relazione tra ignoranza e conoscenza, perché se noi pensiamo per esempio a quest'isola che aumenta di dimensioni, alle nostre conoscenze che aumentano, ed è una cosa alla quale ci capita di pensare spesso, soprattutto nell'epoca di internet, che cosa accade? Che se aumentano le dimensioni dell'isola, aumentano anche le dimensioni dei suoi confini, l'estensione dei suoi confini. Ecco, se noi pensiamo a quei confini come l'ignoranza consapevole, vediamo anche di come conoscenza e ignoranza aumentino allo stesso tempo, e quindi è questa poi la natura paradossale dell'ignoranza. Riprendo l'immagine della libreria, anche perché questa è una trasmissione di libri, lei a un certo punto si chiede: più libri meno ignoranti, insomma non c'è un nesso fra il leggere e il decrescere dell'ignoranza? Non c'è un nesso, e per spiegarlo non ci può essere cosa migliore di un altro libro, un romanzo che è un classico, che è fondamentale secondo me per chi si occupa di ignoranza, che è Bouvard et Pécuchet di Flaubert. I due personaggi, i due protagonisti di questo libro sono due signori, due impiegati di metà 800 che decidono di espandere le loro conoscenze e incominciano a leggere tutto di ogni ambito del sapere, quindi loro costruiscono una vera e propria biblioteca, però al termine di ogni studio, di ogni esame, cioè loro si ritrovano soltanto con aver aumentato la propria ignoranza. Ed è anche significativo il fatto stesso che questo libro, uno dei capolavori di Flaubert, sia un libro incompleto, non concluso, che ci riporta poi appunto alla natura infinita dell'ignoranza. E secondo lei c'è un obbligo morale a non essere ignoranti? Lei affronta questo tema in un paragrafo intitolato appunto Ignoranza buona o cattiva? Appunto, dobbiamo distinguere i diversi tipi di ignoranza. Alle volte l'ignoranza è colpevole, c'è una responsabilità morale nell'ignoranza, ma altre volte non è così. Ad esempio, c'è un tipo di ignoranza che è inevitabile, ci sono cose che non possiamo sapere per definizione, sia a livello metafisico, ma più banalmente non possiamo conoscere il futuro. Ecco, quando ci muoviamo nel campo dell'inconoscibile, anche lì non ci può essere in quel caso una responsabilità morale legata all'ignoranza. E poi comunque il dato da tenere presente è che una certa quota di ignoranza è inevitabile, quindi appunto non può essere sempre colpevole. Poi c'è una categoria particolare che ha assunto un valore universale. There are known knowns. There are things we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know, we don't know. Questo era Donald Rumsfeld in una famosa conferenza stampa ripresa nel docufilm che gli ha dedicato Errol Morris nel 2013, The Unknown Knowns. Che cosa ci può insegnare questa categoria, ciò che non sappiamo di sapere? Allora, quella era una distinzione che Rumsfeld faceva in una conferenza stampa di 15 anni fa, era il febbraio del 2002. E Rumsfeld distingueva in maniera molto corretta tra i diversi modi in cui si possono combinare ignoranza e consapevolezza. E diceva, e ci possono essere anche le cose che noi non sappiamo di non sapere, quelli che potremmo tradurre come gli ignoti ignoti, e i maggiori pericoli possono arrivare da lì, su questa ignoranza che non conosciamo. C'è un particolare curioso. Distinguendo le varie combinazioni, Rumsfeld ne dimenticava una, che sono le cose che noi non sappiamo di sapere, che può sembrare anche questo paradossale, ma ci sono anche quelle. E, per esempio, uno degli elementi che possiamo mettere in questa categoria delle cose che non sappiamo di conoscere potrebbe essere, per esempio, appunto, la propria identità, la propria personalità, noi stessi, la propria coscienza anche, l'enigma al centro dell'ignoranza, forse la conoscenza di sé e quindi l'ignoranza di sé. Dovrebbe essere una cosa che abbiamo di fronte sempre, con la quale siamo sempre in contatto e allo stesso tempo è qualcosa che non conosciamo. Prendiamo il punto di partenza e il punto di arrivo della sua indagine. Il punto di partenza è Socrate e il punto d'arrivo è Google, un motore di ricerca che lei scrive si ispira alla mente di Dio. Ce la farà Google a battere l'ignoranza di cui Socrate era ben consapevole? L'ambizione è quella, cioè Google ha un'ambizione di onniscienza, non lo nasconde, è una cosa che viene dichiarata anche pubblicamente dai suoi dirigenti e mette in campo strumenti sempre più complessi che ci fanno pensare che possa raggiungere quel traguardo. Ovviamente la reale onniscienza è irraggiungibile, però c'è dietro una retorica, un'ideologia quasi dell'onniscienza che viene venduta come un valore auspicabile da desiderare, quindi appunto Google ci fa credere che sapere tutto di tutti sia una cosa buona e che ci farà stare tutti meglio. Ecco, io cerco di rimettere in discussione questa idea perché appunto una retorica dell'onniscienza o della trasparenza, di una società trasparente in cui si conosce tutto di tutti, è una retorica, è un'ideologia che appartiene ai totalitarismi e quindi dovremmo stare attenti quando maneggiamo questo tipo di categorie. E per quello appunto diventa quanto mai necessario tornare alle basi, a Socrate, ai classici e alla consapevolezza della propria ignoranza, che ci fa capire bene quanto possa essere appunto discutibile il desiderio di onniscienza. Grazie ad Antonio Sgobba, autore di Lei come legge il titolo del suo libro? Ecco, il titolo è difficile da leggere in radio, perché il titolo è un punto interrogativo. Benissimo. A cui segue un sottotitolo, Il paradosso dell'ignoranza da Socrate a Google. Grazie ad Antonio Sgobba, buona serata. Grazie a voi, buona serata. E a proposito di ignoranza, parliamo di una condizione che spesso è associata all'ignoranza, cioè la stupidità. Lo facciamo con Bertrand Russell, il grande filosofo inglese, premio Nobel per la letteratura 1950, di cui esce Il trionfo della stupidità, saggi americani, 1931-1935, pubblicato da Piano B, 172 pagine, 14 euro. Qui sono raccolti una parte dei saggi pubblicati tra il 1931 e il 1935 su New York American, tradotti da Andrea Roveda. Quelli erano articoli brevi, rivolti al largo pubblico, che affrontavano molti temi di attualità per l'epoca, ma anche aspetti relativi ai grandi interrogativi dell'uomo, dalla libertà alla verità, all'etica. Sentiamo dal libro alcune righe del 1931 che anticipano un fenomeno del quale siamo ancora oggi attore e probabilmente protagonisti. È un fatto curioso. Più un paese diviene democratico e meno rispetto ha per i suoi governanti. Aristocratici e conquistatori stranieri potevano essere odiati, ma non erano disprezzati. Dalle nazioni che selezionano gli uomini che devono governarle, ci aspetteremmo persone in grado di suscitare affetto e ammirazione generale. Che coloro che sono ritenuti i più saggi e i migliori tra gli uomini siano scelti per il delicato e responsabile compito della gestione degli affari altrui. Questo, tuttavia, non è il caso. Nella gran parte dei paesi democratici, dire di un uomo che è un politico equivale a schernirlo. Le persone che amano la buona opinione della comunità, con poche eccezioni, non cercheranno di prenderne i voti e neppure ci riuscirebbero, mentre gli uomini che lo faranno saranno considerati professionisti di un certo tipo, di mestiere non del tutto ammirabile. Non mi riferisco a coloro che ottengono le cariche più alte. Questo paradosso non era previsto dai pionieri della democrazia. In effetti, il problema non esisteva neppure ai loro tempi. Quando la democrazia è recente, solitamente porta grandi uomini alla ribalta, ma finisce per perdere questo merito non appena diviene un fatto ben assodato. Perché? E non a caso Russell qui poi mette in guardia sui rischi di una democrazia non liberale, scrivendo che mi sembra che oggi gli uomini stiano dimenticando che l'eguaglianza non basta e che anche la libertà è un elemento essenziale della felicità. Comunque sia, in nessun modo la democrazia è anche sinonimo di libertà. E conclude, è molto difficile trovare qualcuno di così convenzionale da non appartenere ad alcuna minoranza. Quindi siamo tutti a rischio di oppressione, a meno che i diritti delle minoranze siano sempre rispettati. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci sentiamo fra pochi istanti. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24 RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Il 19 di luglio ricorderemo il 25esimo anniversario dell'attentato a Paolo Borsellino, il giudice palermitano che fu ucciso assieme a 5 agenti della sua scorta poche settimane dopo Giovanni Falcone. Gli dedica un libro Alessandra Turrisi, giornalista di Palermo, e il titolo del suo libro è Paolo Borsellino, l'uomo giusto, è pubblicato da San Paolo, 120 pagine, 15 euro. Questo libro si apre con una impressionante citazione dello stesso Borsellino che dimostra la consapevolezza che egli aveva del rischio che egli e i suoi colleghi stavano correndo con le indagini alle quali avevano dato vita. La Turrisi ricostruisce qua la vita, la carriera, la fede di Borsellino e l'attaccamento alla famiglia, nonché il metodo seguito nelle sue inchieste, quelle inchieste appunto che gli costarono la vita. E la ramificazione tra mafia e politica sono cosa antica e sono evidenti fin dagli anni dell'Unità. Allora vi segnalo a questo proposito uno studio agile ma efficace su questo rapporto, è quello di uno storico esperto di criminalità, Enzo Ciconte, che ha scritto Borbonici, patrioti e criminali, l'altra storia del Risorgimento, pubblicato da Salerno, 174 pagine, 12 euro. E già nel Risorgimento le classi dirigenti, prima e dopo l'Unità, continuarono, scrive l'autore, a blandire, utilizzare, ad avere rapporti con forze che i governi liberali definivano anche per legge criminali e nemiche dello Stato e con le quali il governo borbonico aveva più volte ed ampiamente trescato, impiegandole ripetutamente proprio per ostacolare il movimento risorgimentale. Così scrive l'autore, indicando il tema del libro, che vuole studiare appunto questa reciproca fascinazione tra il potere e la criminalità organizzata. Già i Borboni avevano utilizzato i mafiosi, come abbiamo sentito, i quali diedero vita a un sistema inedito, quello di una criminalità che utilizza la violenza a favore degli interessi economici dominanti. Con Garibaldi si schierano i mafiosi stessi, poi con i Savoia alcuni dei nuovi politici, per esempio Silvio Spaventa o Carlo Farini, cercarono di fare piazza pulita dei camorristi e dei mafiosi, suscitando nel tempo il sospetto che in realtà i camorristi potessero dare manforte all'opposizione al governo. Il rapporto camorra-politica non verrà meno, come quello con la malavita calabrese, e anche in Sicilia lo scontro politico si giocherà proprio sull'appoggio della mafia. Il dramma che fece esplodere questa evidenza fu l'assassinio di uno stimatissimo gentiluomo palermitano, città di cui lo stesso era stato sindaco, Emanuele Notarbartolo, un'uccisione che mise in luce gli intrecci malavitosi con la politica e la finanza, e già allora esplose il cosiddetto sicilianismo, cioè la tendenza a leggere questa interpretazione come un'offesa alla Sicilia stessa. La Palermo dei misteri e dei giustizieri è letterariamente descritta in un denso libro in due tomi di 1760 pagine, particolarmente adatto a una lettura estiva perché si tratta di un feuilleton, di un romanzo ottocentesco. Un romanzo storico di cui è autore Luigi Natoli, uno scrittore di Palermo, che fu patriota, repubblicano, storico ed espressione della cultura siciliana. Morì nel 1941 ed è molto noto per un'altra opera storica, I Beati Paoli, di cui questo che vi presento è la prosecuzione. Il libro si intitola Coriolano della Floresta, pubblicato da Sellerio, 25 euro. Il libro abbraccia il periodo compreso tra il 1722 e il 1773, in cui la Sicilia è di nuovo al centro di appetiti di molte dinastie, e il personaggio che dà il titolo al libro è il capo di una setta tenebrosa, gli Incappucciati, che protegge un amore contrastato da cui parte la vicenda, che ci riporta a un clima che non ci viene nuovo, come illustrano le righe che adesso vi propongo. Il povero duca di Castellana, nuovo pretore, si era trovato con grossi guai sulle braccia e, volendo rimediarvi con nuove tasse, si attirava gli strali e le minacce del popolo stremato, che non intendeva ragione. Qualche giorno dopo, sul muro del palazzo senatorio, si trovò appeso un teschio, sotto il quale erano dipinte due sbarre color sangue, segno di morte. Tutte queste manifestazioni dello stato d'animo del popolo impensierivano il viceré, Marchese Fogliani, che sentiva anche giungere al suo indirizzo più di una frecciata. Il Marchese Fogliani era in fondo un gran da ben uomo. Aveva però il grande difetto di lasciarsi menare dai suoi segretari, che erano una cozzaglia di birboni, intenti a riempire il sacco e a tenere bordone a tutti i dissanguatori del popolo. Non andando tanto per il sottile e ragionando con una logica grossolana, il popolo faceva risalire al viceré i mercimoni, gli arbitri, le violenze contro ogni sentimento di giustizia, le depredazioni dei suoi ufficiali. A diffondere il malumore contribuivano gli appaltatori dell'Annona, gli speculatori sulla miseria pubblica, lesi nei loro illeciti guadagni da qualche provvedimento del viceré medesimo. Pochi giorni fa il Papa ha nominato il nuovo arcivescovo di Milano, che è Monsignor Mario Delpini. Lo salutiamo, gli facciamo tanti auguri, e salutiamo l'uscente, il cardinale Angelo Scola, segnalando il suo ultimo libro, Post-Cristianesimo, col punto interrogativo, Il malessere e le speranze dell'Occidente, pubblicato da Marsilio, 142 pagine, 14 euro. Come mette in luce il sottotitolo, questo libro si rivolge a tutti, perché affronta una situazione generalizzata di malessere che attraversa tutto il mondo occidentale. Questa condizione dolorosa dell'uomo contemporanea, così lo chiama il cardinale Scola, e pone delle domande radicali alle quali è difficile dare risposta, anche perché rischiamo di leggere la situazione attuale in modo riduttivo. Infatti Scola scrive che tutti sentiamo con particolare intensità l'urgenza di un cambiamento, di una novità radicale, ma nella lettura di questa situazione soffriamo spesso di una riduzione del campo visivo, la vediamo solo come una crisi economica o politica e non per quello che è veramente un travaglio di civiltà all'inizio del nuovo millennio. Questa crisi dunque attraversa l'economia, la politica, ma soprattutto una visione antropologica smarrita in quello che l'arcivescovo Scola chiama il babelismo, citando lo scrittore francese Jacques Maritain, cioè la voce che ciascuno proferisce non è che un puro rumore per i suoi compagni di viaggio, manca, aggiunge, una visione unitaria e condivisa dell'uomo. E Scola affronta il ruolo della religione in questa epoca post-secolare e soprattutto pone il problema di un'interpretazione che a lui pare riduttiva della laicità, che secondo il cardinale troppo spesso viene considerata pura e semplice indifferenza. Per Scola invece la laicità non dovrebbe escludere un ambito in cui tutti i diversi devono avere la possibilità, così scrive, di contribuire responsabilmente al bene comune della comunicazione, cercando di spiegare in un linguaggio accessibile a tutti ciò che per loro vale. E quindi la laicità non equivale a costruire spazi neutri, ma ambiti in cui tutti si raccontino e si lasciano raccontare. Il libro si chiude con un invito ai cristiani a sapere rendere testimonianza, una testimonianza che non sia soltanto esempio e tantomeno pure semplice militanza, ma capacità, scrive, di uscire da se stessi per portare con sé tutti a Cristo, riconosciuto come speranza per ogni uomo e ogni donna. E questo richiede anzitutto la necessità di rischiare la propria libertà di esporre se stessi. Il nuovo arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha pubblicato l'anno scorso E la farfalla volò, è pubblicato da Ancora, 168 pagine, 15 euro, che è una raccolta di 52 brevi apologhi, di breve storie, per aiutare il lettore a costruirsi un percorso di spiritualità. Un altro titolo di Mario Delpini, pubblicato questo qualche anno fa, è Con il dovuto rispetto, frammenti di saggezza all'ombra del campanile, pubblicato da San Paolo, 158 pagine, 12 euro, che è un affettuoso ritratto del mondo delle parrocchie che Delpini conosce bene, con tutti i suoi innumerevoli caratteri e contraddizioni. E il mondo di una parrocchia, in questo caso francese, è descritto in un libro che ha avuto un enorme successo in Francia e che sicuramente piacerà a Monsignor Delpini. Il libro si intitola Il signor parroco ha dato di matto, è di Jean Mercier, che è un giornalista importante di uno dei più significativi settimanali francesi, La Vie, pubblicato da San Paolo, 144 pagine, 14 euro, ed è tradotto da Carlo Travaglino. Siamo qui in una piccola parrocchia francese, appunto governata dal parroco Don Beniamino, un ottimo prete, un dotto biblista, angosciato tuttavia dalla burocratizzazione crescente della propria missione pastorale. Una burocratizzazione di cui è espressione artefice la responsabile catechistica della diocesi, una specie di sociologa invasata che vuole fare piazza pulita di tutte le tradizioni religiose a partire da quello che dovrebbe ancora essere un sacramento, cioè la confessione, considerata da molti parrocchiani come una insopportabile intrusione nei propri affari. Don Beniamino sopporta, cerca di obbedire al vescovo, ma a un certo punto non ce la fa più e decide di scomparire, anzi più che di scomparire, di chiudersi in una nuova forma di eremitaggio che ben presto farà del prete un personaggio di notorietà nazionale. E il libro si sviluppa fino al colpo di scena finale, anzi fino al doppio colpo di scena finale, nella descrizione, con tratti affettuosamente umoristici, di questo mondo della parrocchia tradizionale, ma soprattutto dell'impegno di un prete umile ma entusiasta per ritrovare un senso alla propria missione e a quella della Chiesa. E a questo punto il confettino. Vi segnalo di Beaud de Ruyenard, Christiane Artessen, che è l'illustratore, il libro Il principe Arturo e la principessa Leila, pubblicato da Babalibi, 13 euro, tradotto da Tanguy Blot. Questo è il libro che parla di un inatteso matrimonio principesco, una variante delle classiche favole con lieto fine, qui rappresentato dalla conquista della tolleranza verso chi viene da lontano. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Roberto Friani e Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.